ci sono i due aspiranti fidanzatini timidi e impacciati che corteggiandosi, mantenendo quella che gli studiosi di prossemica definirebbero che sono una distanza pressoché sociale, fanno cadere una bottiglia di limoncello. Giusto il limoncello lo spot voleva venderci, d'altronde. Ci sono i due ragazzi più sbrigativi, assatanati l'uno dell'altra, che si prendono senza mezzi termini. Iniziano un corpo a corpo mozzafiato e cercano la via più breve per una meta che non sia infastidita, diciamo, dalle leggi dei gravi. Nel piombare, dove capita, rovesciano il latte. Latte che non ha nulla a che vedere con il prodotto pubblicizzato dallo spot, perché qui si sta cercando di convincere tutti noi a usare un portale internet piuttosto che un altro, un portale che vorrebbe guidarci fra selve oscure e beati regni e che dunque non a caso si fa chiamare Virgilio. C'è poi quello che è al bar e che all'improvviso ha il sentore di aver fatto breccia nel cuore della sua bella, non se la sente di baciarla lì per lì, la pianta in asso e corre per di fiato fino a casa, si lava i denti e torna. Lei, paziente come un mulo, è ancora lì, ma invece di concedersi al bacio, gli mette in mano una pasticca dai gum che, almeno ad un consumatore distratto e obiettante come me, sembra essere venuto al mondo come palliativo del dentifricio. Nell'emozione del momento lui non si avvede del cameriere che passa alle sue spalle con il vassoio pieno e il minimo contatto che ne segue è sufficiente per buttare giù tutto. Che si usino interazioni amorose per vendere le proprie merci è storia vecchia. Anche la Bibbia, d'altronde, fa promozione turistica per l'Eden. Ma che il certificato di garanzia dell'interazione amorosa sia costituito dal far cadere qualcosa è, occhio e croce, un'asserzione tutta moderna. Così come il sudore di olio di vaselina nei film degli anni 50 sugli antichi romani, i liquidi e i vetri che finiscono sui pavimenti rappresentano il grado di coinvolgimento dei protagonisti. La soluzione narrativa fa il paio con quella che nei film di oggi è utilizzata per esibire a posteriori la prima notte d'amore dei protagonisti. Una scarpa all'ingresso, l'altra lo sa Dio dove è andata a finire, una giacca appallottolata qui, una camicia là, una cravatta sulla bajour, calze di seta, 10 metri più in là un reggiseno, un paio di pantaloni con una gamba sfilata all'incontrario, un paio di mutandine sul cranio di un cane perplesso. L'unica cosa che non si sa mai dove sia sono i calzini di lui. È tutta una teoria lunga metri, fino a qualche decina nei casi di classi sociali agiate che si possono permettere appartamenti che, attraversati nel desiderio reciproco dei protagonisti, sembrano non consentire mai il traguardo di un letto. Uno che si tolga i pantaloni e se li pieghi per bene allo scopo di salvarne la piega, che cerchi il ripiano più adeguato a conservarli, o una che si sfili le calze usando tutte le cautele per non smagliarle, non li si vede più, se non nei film comici. Sembrerebbe non esserci più nessuno che cerchi di avvalorarsi all'occhio dell'altro, mostrando quanto è ordinato, quanto è scrupoloso, quanto è custode della dignità dei propri indumenti e lungimirante economo che non butterà mai via i quattrini dell'eventuale cassa comune in lavanderia, stiratrice e sartorie varie. L'amore è disordine. Fino a quando è amore, perché poi il disordine non è amore. O almeno non basta il disordine per garantire l'amore. Prima o poi, e il criterio relativo al tempo testimonia anch'esso del grado di coinvolgimento dei protagonisti, prima o poi qualcuno dovrà pulire per terra. Toccherà all'uno o all'altra, o a entrambi se le cose si mettono davvero bene, o a un terzo se si tratta di un amore a responsabilità limitata. Nella forma diaristica però queste soluzioni non filano affatto lisce. In un film dell'anno scorso, se non vado errato, Le parole che non ti ho detto, di un certo Louis Mandocchi con Kevin Costner e la Robin Wright Penn, il personaggio di Teresa racconta di aver visto per un attimo suo marito con l'amante scomparsi subito nel bosco. Ovviamente per lei è stata una stilettata nel cuore e dice: ero in macchina, li ho visti e senza spegnere il motore sono rimasta lì per un'ora e mezza. C'è l'amore deluso, e c'è anche qui quella differenza dal paradigma delle buone maniere che sembrerebbe tanto indispensabile per rappresentare il coinvolgimento. Il motore dell'auto rimane acceso per un'ora e mezza. Tuttavia il fatto che sia la protagonista medesima a raccontarlo documenta inoppugnabilmente che l'attenzione a se stessa è rimasta vigile e attiva, non soltanto per ragioni ecologiche, dunque, del suo amore ci sarebbe da dubitare.